L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Dai, forse iniziamo, per favore. Allora ragazzi, oggi voglio iniziare con una cosa che riguarda il Presidente del Consiglio. Non ne parliamo quasi mai qui, può sembrare strana la zanzara. Renzi, il quale in maniera secondo me incredibile parla dei talk show, cioè parla della qualità dei talk show, addirittura degli ascolti dei talk show, cioè parla del fatto che due talk che si chiamano Ballarò, molti di voi conoscono Ballarò, come molti di voi conoscono Di Martedì, programmi condotti da Giannini e da Floris. A me di quello che fanno può interessarmi come osservatore. Il Presidente del Consiglio non si può permettere di dire quello fa ascolti così, quello fa ascolti colà, la somma di quelli fa Rambo, perché questo ha detto. Ma cosa gliene frega al Presidente del Consiglio della qualità dei talk show in Italia? In Italia c'è di tutto, ci sono documentari, ci sono racconti, ci sono programmi d'inchiesta, ci sono talk show che fanno le piazze, ci sono talk show che fanno i dibattiti più o meno bene. Il Presidente del Consiglio non può parlare della qualità dei talk show in Italia. Se lo fa, sbaglia. Significa che ha una pulsione verso il controllo, verso il servilismo. I talk show hanno i loro problemi. Se alla fine i talk show di martedì scorso, tutti e due, fanno meno di Rambo, no, non c'è da ridere, è un dato di fatto. Se tutti e due i talk show fanno meno della 107esima replica di Rambo, evidentemente che replica per replica, trama conosciuta per trama conosciuta, emozioni già viste per emozioni già viste, finale che è sempre lo stesso in tutti e tre i casi, almeno si va nella storia scritta meglio dagli americani. Ovviamente Parenzo, ci sei innanzitutto? No, io devo andare a fare il digiuno dello Yom Kippur, quindi vi saluto e vi mando no, quel aspetta. Paese tutti quanti. Vabbè, ci manda quel paese. Però, ma... hai detto molto bene, purtroppo mi dispiace darti la... Il Presidente del Consiglio si occupi del MEF, si occupi del Colosseo, si occupi degli sbarchi dei profughi, ma non si occupi di dei talk show. Ecco, questo hai detto molto bene. No, bravo. Ma la cosa incredibile. Aspetta, aspetta un attimo. Aspetta un secondo, aspetta un secondo, perché la cosa incredibile. Lo so, da oggi devi aspettare un attimo. Quando il Papa fa l'Angelus dice aspetta un attimo. Non capito che sei il Papa, no? Tu sei il Papa. No, se tu ci avessi davanti un fedele che sta andando all'Angelus, parlo da parrocchia tua, insomma, di quella che dovrebbe essere. Non è che ma il fedele però il fedele però vabbè. Dici no, guarda, scusa, devo fare la zanzara. Dici scusi signor Papa, può rinviare l'Angelus di una mezz'ora? Non mi sembra. È un paragone sbagliato, però è un paragone sbagliato. Detto, come se a un fedele dici Parenzo, di al rabbino di fermarsi un attimo, non è possibile. Di al rabbino, no? Di fermarsi, dai, ecco, di al rabbino, signor rabbino. Questo ti voglio far capire. Signor rabbino, che un islamico che stando in moschea dice all'imam, scusi imam, può fermare un minuto il Ramadan per cortesia perché devo finire la zanzara? Si, si potrebbe mondo... aprire un discorso che ormai facciamo da tanti anni. Vabbè, allora, è meglio non riaprirlo, però aspetta, a tutti quanti con grande gioia. Siamo d'accordo, siamo d'accordo su questa cosa qui, no? Cioè, assolutamente. Siamo d'accordo su questa. La cosa incredibile. No, ma è peggio di Berlusconi in questo, peggio di Berlusconi, sì. No, peggio sì, perché almeno Berlusconi ma se ne fotteva, dire... non dava giudizi di qualità, no? Cioè, no, voleva controllare e basta. La faceva e ne era proprietario anche. E cercava di controllare anche la Rai in parte, sì, certo, infatti allora cacci chi non gli piace, faccia come Berlusconi. Almeno Berlusconi non è stato subito in quello, diceva non mi piace, lo ha cacciato. Poi con questa cosa del racconto del paese, senti questa cosa che dice sul racconto del paese, ma chi ma se ne frega? Racconto, il racconto lo Yom Kippur, non c'è. Aspetta, senti Renzi, senti Renzi. Io ho visto cambiare l'umore dei deputati e dei senatori del PD quando sono iniziati i talk show. hai visto, hanno iniziato ad attaccarci, ce l'hanno con noi. Lasciateli fare. Il punto vero è che il racconto del paese non può essere il racconto pigro e mediocre in cui va sempre tutto male, con la solita musichina da 10 anni che elenca tutti i problemi e le cose che non vanno. La cosa più incredibile è che Renzi dice queste cose, ma i suoi gli vanno dietro. Cioè, come tanti... Come fa a dire che è mediocre il racconto giornalistico? Lo può dire, per carità, come qualunque... Ma certo, lo può dire, però lo dice in privato, cioè lo dice con gli amici, non è che lo può dire pubblicamente. Tu fai un brutto talk show, te lo dice il Presidente del Consiglio. No, ma dove mediocre, stiamo? Mediocre e pigro, ma chi se ne frega? Ma la cosa peggiore, secondo me... Avete già stufato oltre misura. No, ma la cosa incredibile è che i suoi gli vanno dietro. Ho sentito oggi, ma andremo più avanti, la Serracchiani che dice, beh sì, a me non piace questo tipo di talk show, ce l'abbiamo pure la Serracchiani. No, ma sì, in un talk show, certo, è andata ospite alla Merlino. Ottimo programma quello della Merlino, però. No, ma assolutamente, però in un talk show l'ha detto, senti, dove peraltro spesso ci sono le dinamiche uguali a quelle degli altri talk show, non è che sono diverse. Trovo che nell'ultimo periodo in molti dei talk show quello che è venuto meno è la capacità di confrontarsi senza urlarsi addosso, senza parlarsi sopra. Io sono tra quelli che magari non penseranno allo stesso modo con quello che ho seduto accanto, però mi piacerebbe poterci parlare, non essere sempre interrotta o semplicemente dover gridare più forte degli altri. Spero che gli italiani di questo si siano stancati, sinceramente. Bah, la Serracchiani che critica i talk show e dice che spero che gli italiani si siano stufati di certi talk show. Ragazzi, ma siamo veramente alla follia. E ieri ci siamo persi Grillo che si traveste da vecchio e dice siamo nel 2042. Senti. Siamo nel 2042, siamo dal 2017 al governo e sono passati 25 anni. L'ho goduta poco perché sono uscito di galera una settimana fa, ma abbiamo fatto una cosa meravigliosa, di tutto, democrazia dal basso, che non ci credeva nessuno. Abbiamo fatto i referendum senza quoro inseriti nella Costituzione, leggi popolari. Poi dice addirittura che siamo usciti dalla NATO, cioè vuole uscire dalla NATO, adesso non so, magari è un bene pure, no? Siamo usciti dalla NATO, non pensavano che fosse impossibile, ci siamo usciti. Siamo usciti da queste guerre camuffate da missioni di pace. Abbiamo abolito la massoneria, non si possono più candidare perché sono i massoni. Pure dall'euro! Siamo usciti dall'euro, uscire dall'euro, state attenti, io mi ricordo, ero dentro, però i secondini mi dicevano, guardi che sono tutti preoccupati se usciamo dall'euro, non è vero, siamo usciti, la lira è forte, è un bene rifugio per gli svizzeri. Hai capito? Nel 2042 siamo usciti dall'euro, dice Grillo. Guardi, io nel 2042 non ci sarò probabilmente, quindi saranno cazzi di quelli che verranno. Ma come non ci sarai? Che ne sai, no? Non ci sarai? È 2015, scusa, che dici? 2042? 2042. Beh, anni avrò, 2042, ne ho 39, ne avrò. Ma voglia, come no? Devi sperare di esserci. Scusa, beh, scusa, devi mettere 2015, 2042, sono 27 anni, 27 beh, più. Sì, ci sarò, ma non me ne frega niente, francamente. Non te ne frega nulla, te che ti frega, solo dello Yonki pur, vabbè, dai. Adesso sì, vi saluto, ciao ragazzi. Perché non ci mandi serenamente a fare in culo allora anche? Vi mando con gioia e con abbracci. Lo Yonki pur, amico mio, lo Yonki pur, ancora con lo Yonki pur. Ma il mondo va avanti, il mondo va avanti. Il portone dello Yonki pur che si chiude come un'epoca, guarda, senti. Ma che era il portone? Era il portone della sinagoga. Voi vi rendete conto che ancora poi dicono, vabbè, lasciamo perdere, dai. Ancora uno è il digiuno, lo Yom Kippur, l'assenza dal lavoro. Avete sentito il portone della sinagoga che si è chiuso? David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Sì, ma adesso lo riprendo, adesso lo riprendo questo stronzo. Oh, intanto, meraviglioso scontro tra Gianluca Buonanno ed Alba Parietti. Beh, ovviamente il tema qual è? Gli immigrati, le coppie degli scontri, li metti insieme e si scontrano. Faccio una domanda. Siete cattolici? Chiediamolo siete cristiani? In quanto cristiani. Allora, voglio dire, in quanto cristiani, in quanto cattolici, se voi seguite i dettami di quello che dice Papa Francesco in questo momento, si parla di capacità di accoglienza, di ascolto delle persone diverse. Allora, Alba, scusa, tu immagina una casa grande, prenditeli te 19 allora, profughi e magari trovi anche l'anima gemella. Magari trovi l'anima gemella. nessuno di voi da domenica può più mettere piede in una chiesa, nessuno di voi può professarsi cattolico, perché la parola di padre Franceschi, il Papa Francesco, è l'esatto contrario di. Ma se sei stato comunista reazioni. Fino a ieri io lo, Papa Francesco. Allora, ma non certo, Alba, ma anche oggi, non ti preoccupare, ma sono cristiana, sono cristiana. Noi siamo cristiani. Cioè rispetto agitiamo. La parola di Cristo che è la parola di Papa Francesco. Va bene. Tu che fai quando vai a dormire? I sogni traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Zanzara. Rifatemi il numero di Parenzo, rifatemi il numero di Parenzo. Intanto, nel frattempo, pizzicatelo pure dietro il portone della sinagoga. Nel frattempo, ennesima polemica ridicola, inutile sulla questione di Gomorra. Ragazzi, no, il problema non è Gomorra, il problema è la criminalità che c'è a Napoli, il problema è l'occupazione del territorio, il problema è tutto quello che sapete, che c'entra la fiction? La fiction è una fiction, non è che i camorristi diventano camorristi perché c'è Gomorra, non è che i ragazzi vedono Gomorra, film, serie, quello che volete, e improvvisamente si mettono a sparare o c'è una questione di imitazione. È evidente che quando vengono portati sul piccolo schermo, sul grande schermo, dei criminali, questi diventano protagonisti, questi diventano anche, se vogliamo, eroi delle serie. È normale che sia così. Comunque, il questore di Napoli, stavolta c'è, cioè un personaggio importante, in un'intervista a Raffaella Calandra cosa ha detto? Ha detto che la fiction su Gomorra è offensiva e non rappresentativa. Ma la fiction non deve essere rappresentativa di una mazza, è un racconto, una storia, anche inverosimile. Io certi programmi non li vedo per principio, perché li trovo offensivi, oltre che scarsamente per niente rappresentativi di quello che vorrebbero rappresentare. Però è chiaramente un giudizio strano. Comprese le fiction, quelle su Gomorra. Come no? Come no? Beh, a quello si riferiva naturalmente, no? Oh, mi ricorda quello che ha detto il sociologo De Masi qualche giorno fa alla Zanzara, quando ha detto che. Cos'è che ha detto? Che Gomorra era diseducativa. La serie Gomorra di Sky è assolutamente negativo dal punto di vista pedagogico. Oh, Parenzo è tornato in tempo per chiamare Enrico Rizzi, quel delinquente di Enrico Rizzi, partito animalista europeo, che gode quando ammazzano i cacciatori, quando i cacciatori o se sparano da soli o uno spara all'altro, o in un caso che è successo nei giorni scorsi, uno ha sparato e ha ammazzato il fratello. Pronto? Rizzi? Sì? Come stai, amico mio? Giuseppe Cruciani, l'incubo. Come stai? Bene, Cruciani, io sto sempre bene. Ma che fine hai fatto? Sei sparito? Perché sono sparito? T'hanno minacciato, che è successo? Scorta, polizia, servizi segreti? No, servizi segreti no, Cruciani. No, pensavo che ti fosse successo qualcosa di grave, minacciato da qualche cacciatore. Vabbè, io lo so che tu speri, però... No, io non sono come te che godi se muore un cacciatore o si ammazza addirittura, come è successo adesso recentemente, se un cacciatore ha ammazzato il fratello. Ma caro, quando uno si prende, fa delle scelte e sa che va a rischiare, poi se succede qualcosa non è che si deve tanto disperare. Tu hai scritto, godo alla notizia che è morto di un cacciatore che ha ammazzato il fratello. Ma assolutamente sì. Ma come sì? Godi per la morte di questo? Tra l'altro non è manco morto. Sì, ma sono degli assassini. A parte che non sono morti due, uno è morto e l'altro è ancora vivo. Uno. Due lo farò sempre, Cruciani. Cioè, purtroppo dice vivo. Dici purtroppo. Purtroppo è ancora vivo, capito? Ma come fai a dire una cosa del genere? Ma caro mio, il karma li colpisce. Quando tu ti svegli la mattina, ti vesti da non so cosa, perché poi da cacciatore. Ma che da cacciatore, ti vesti in quella maniera là che non so neanche trovare il termine esatto, e vai a uccidere, tu sai benissimo che rischi di poter rimanere ferito, addirittura ancor peggio di rimanere. Vabbè, ma quello lascia perdere. Se ci rimani secco, non me ne può fregare di meno, te la sei andata a cercare, capito? E non puoi godere perché muoiono. Scusami, allora ti ripeto per l'ennesima volta, perché non lo posso fare? Ma no, tu lo puoi fare, ma è una cosa... Vanno a uccidere, uccidono, si fanno i filmini, le fotografie con i loro trofei quando uccidono gli animali, felici e contenti, lo fanno con gli animali. Beh, certo, con gli animali, sì. Perché lo faccio io con loro. Scusa. Anzi, a differenza, io non ho il corpo loro, non ce l'ho, dico soltanto che ho saputo, che ho letto dai giornali. Loro invece lo fanno con gli animali. Vabbè, ma gli animali non sono la stessa cosa, eh. Non è la stessa. E riprendiamo sempre la solita messa, chiamiamola così. Ma non è la solita messa. Gli animali sono degli esseri viventi che vanno rispettati, ok? È semplicissimo come discorso. Sì, ho capito. Quindi ma se tu godi della loro morte, ancor peggio, li vai a uccidere e ti fai le foto, i filmini, se quando vai a caccia ti succede qualcosa, io esulto. Tutto qua. Ma esulti, dai, su, ma non si può esultare. Ma si può. In cui si può cacciare, fine, arrivederci, sì, grazie. Ma tu sì, ma parli ancora, ma dai. Beh, ma certo, dai, che parlo ancora. Ma leggo delle cose di te, dai, lasciamo perdere, non dovresti neanche parlare. No, no, dai, lascia perdere, dai, non mi va a prendere. Lascia perdere, dai, cosa leggi? Sentiamo, Ricci, no, cosa leggi, Ricci? No, sentiamo. No, dai, lascia perdere. Cosa leggi di Parenzo? Non ho capito sentiamo, che ha fatto. Sentiamo, no, cosa è stupido, ma leggo la bacheca sua a volte lì su Twitter, su Facebook, cioè si prendono tutti per il culo, capito? Non dovresti neanche stare lì a errare a parlare. A te ti trattano come uno statista, invece. No, no, come uno statista no, però dai, se è bene o male, un po' più di seguito di te ce l'ho. Il cioè, partito animalista europeo, dai, su, non esiste sto partito, dai, su. Perché non cambi il partito animali? Perché non metti in lista degli animali, ad esempio? Visto il successo elettorale che hai avuto anche nel passato, metti in lista dei cavalli, dei cani, dei gattini. Mettili nella lista. Fai votare dei cani, dei gatti, delle giraffe. Fai una lista, no? Con delle giraffe per andare in al Parlamento Europeo, vedi una giraffa, la cane di capolista nella circoscrizione. Parenzo? Ti sei sfogato? No. Ma visto che io sono tranquillissimo, sono anche divertito dalla tua presenza, molto divertito. No, ma mi fa piacere che ti diverti, quello mi fa piacere, perché per un soggetto come te capisco che il mi fai divertire, io ti suggerisco di andare oltre. Se tu pensi che gli animali sono uguali ai cosi, sono uguali agli esseri umani, allora candidali, no? Candidali è un animale. Di essere umano. Dipende, caro Cruciani, da essere umano e essere umano. Gli animali sono come gli anziani, come le persone purtroppo che hanno delle problematiche, che hanno necessità di essere difese, come bambini, capito? Quindi hanno quei diritti che purtroppo da noi nel nostro paese ancora non ci sono. Quindi bisogna tutelarli, bisogna difenderli. Non ho detto che sono uguali. Ma scusa, ma tu faresti... Se tu mi prendi il cacciatore, è un animale. Io preferisco senza dubbio tutelare e difendere l'animale che piuttosto il calciatore per me può crepare strada, cioè non me ne frega niente. Ma che può crepare strada, amico mio? Allora, io ti dico una cosa, ti dico una cosa, io vengo da una famiglia di cacciatori, mio zio è un cacciatore. Sei stato in Africa, dove sei stato? Sì, ma non ho cacciato, sono stato lì a puntare, in realtà. Una volta quando mi hai fatto la prima intervista, l'anno scorso, caro mio, mi hai detto che sono andato a caccia. Vabbè, sì, a caccia in Madagascar, sì, in Madagascar, certo. Senta, quanto sei sfigato, Dio santo, mamma mia. Madagascar. Quell'età. Perché? Quell'età. Perché è sfigato? No, vabbè, dai, Cruciani, che ti devo dire, su. Vabbè, ciao Rizzi, godi, godi, mi raccomando, godi. Ciao, Cruciani, buon lavoro. Ciao. Stefano da Roma, vai. Buonasera, Cruciani. Dimmi. Io vorrei fare un augurio al sindaco Marino che riparte negli Stati Uniti. Sì. Io gli auguro a Filadelfia di incontrare, oltre al Papa, anche padre Amort, l'esorcista. È evidente che questo sindaco è posseduto dal demonio. Perché? Ma com'è possibile? È tornato il 4 o il 5 settembre dai Caraibi e dopo due settimane già riparte. Ma che vuoi? Dice che va a trovare dei soldi per Roma. Ma quali soldi? Ma la sporcizia, gli autobus. Ma Marino è posseduto, bisogna che si ravveda, se no ci rimanga negli Stati Uniti. No, tra l'altro, secondo me un sindaco come Marino, in questa situazione anche, se vogliamo, di consensi, la situazione del PD, dovrebbe, secondo me, ogni giorno andare in un quartiere, farsi vedere in un quartiere, non andare a New York, stare lì per strada, con la camicia sporca, con i vestiti tutti strappati che pulisce un giardino. Cioè, dovrebbe fare questo tipo di presenza quotidiana sul territorio tutti i giorni in un quartiere, solo che magari diventa pericoloso. No, ma io spero proprio in padre Amort, ci vuole l'intervento di un guardiano. Va bene, Enrico Torino, Enrico, dimmi. Era. Vai, dimmi. Sì, io penso che Renzi non abbia poi tutti i torti, perché vedendo il talk show c'è questa maniera di protagonismo dei presentatori, cercano di sì, Enrico, può darsi a lei non piacciono, a te non piacciono i talk show, benissimo, il fatto che Renzi dia dei giudizi su alcuni talk show, non tutti, beh, francamente lo trovo una cosa ridicola. Cioè, si occupi di altre cose, la questione della qualità dei talk show, cioè di quello che vediamo in televisione, è di Aldo Grasso, i critici televisivi, la Rai che fa la sua politica, il Presidente del Consiglio dovrebbe disinteressarsi di questo. Giornale Radio. Giuseppe Cruciani, l'incubo. Con Radio 24 è tutta un'altra domenica, con grandi conferme e nuovi acquisti, con una nazionale di grandi nomi. Pino Insegno, Maria Latella, Rosita Celentano e Angelo Vaira, Pierluigi Pardo, Filippo Astone, assieme ai conduttori più noti del palinsesto della radio, Giovanni Minoli, Gianluca Nicoletti, Enrico Ruggeri, Gegè Telesforo, Alessio Maurizi e tanti altri. Una domenica per pensare, riflettere, emozionarsi e divertirsi con le storie, le voci più belle del cinema, la musica d'autore, la grande attualità e il racconto della storia, la vita delle donne e uno speciale processo al calcio che non può mancare nella domenica degli italiani. Su Radio 24 la passione si sente e la domenica l'emozione si vive. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. È un freak show, ma lo dico con tutto l'amore. Dovete parlare di fighe, dovete parlare di matrimoni, assolutamente dovete parlare di quelle cose lì, ma di fiori d'amore, ma di che, ma cosa stiamo dicendo, ma per cortesia. Beh, amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Ragazzi, proviamo a richiamare Parenzo, per favore. Dai, su. Sì. Ma deve durare molto questo digiuno? Oh, mamma mia, t'ho detto dura 25 ore come tutti gli anni, non è che cambia. È una delle feste più importanti, perché mi devi chiamare adesso? Io sto c'ho da fare adesso. No, ma spiegami una cosa. Vuoi spiegare al popolo della Zanzara, agli ascoltatori, in che cazzo consiste questa roba qui? Ha dato la gente salame, va su Google. Ma che c'entra? I salami, che c'entrano i salami? Non trattare. E scrive Yom Kippur su Google e troverà centinaia di pagine dove racconta l'importanza di questa festa. Ma perché uno deve fare l'espiazione? Perché deve fare una festa dell'espiazione? A te non basterebbe un giorno, perché ti ci vorrebbero dei cani a te. Ma quello a tutti in generale, No, a te in particolare, per la cattiveria d'animo, ti ci vorrebbero degli anni. Anzi, una delle cose più belle del digiuno di Kippur è prima che entri in questo digiuno, che consiste nel non mangiare e non bere per 25 Mamma ore. Mia, quello fa bene alla persona obese, alle persone che hanno problemi, diciamo, di peso. A tutti fa bene, a tutti, perché devi staccare il telefono, devi staccare tutto e quindi nessuno ti deve rompere le balle, sostanzialmente. Ma prima di fare perché uno si domanda un senso, perché devi anche dire scusa alle persone a cui ipoteticamente puoi aver fatto del male, quindi capisci che è una giornata che a te servirebbe molto. Io ho sempre detto che la religione, prima che inizi il digiuno, tu, perché abbia un valore, tu devi chiedere scusa alle persone alle quali pensi di aver procurato un danno. Io ho sempre detto che la religione è la causa di tutti i mali del mondo, non c'è niente da fare. E rimango convinto. Sto andando alla. Ci rivediamo giovedì. In sinagoga, amici miei. Salute. Para acá. ragazzi miei, che figura di merda. Intanto Parenzo se n'è andato e vediamo di recuperarlo dopo ancora una volta, perché gli voglio rompere i coglioni fino alla fine con questa sinagoga, con questo Yom Kippur, con questo digiuno ebraico di cui me ne fotto. Per carità, rispettiamo le istituzioni, l'esercito, il Papa, i rabbini, gli imam, però uno lavora, no? Vabbè. Che figura di merda il signor Franco Di Mare, per carità, può capitare a tutti, però il personaggio è abbastanza navigato, il conduttore di Una Mattina, giornalista della Rai, eccetera, che a un certo punto un ospite, che così, un piccolo ospite, un generale, anzi un colonnello della Guardia di Finanza, era lì ospite, stava spiegando i dati sull'evasione fiscale, eccetera, eccetera, se ne va, la linea passa a un'altra signorina e lui, pensando che il microfono fosse giù, dice alla sua co-conduttrice: beh, meno male, dovevamo chiamarla prima quella là. Adesso lo sentirete un po' basso come audio, però c'è l'audio. Meno male, dovevamo chiamarla prima, quello là era uno stronzo, uno noioso. Perché era il colonnello della Guardia di Finanza? Grazie, comandante Giovanni Avitabile, per essere stato con noi. Adesso Antonio Marini. Volevo chiamarla prima perché questo era stronzo. Dovevamo chiamarla prima. Questo era stronzo e noioso. Beh. La teoria di Bonanno: chi scappa dalla guerra dovrebbe rimanere lì. Chi scappa dalla guerra, anche se loro non scappano dalla guerra, se vogliono combattere per la propria terra, non scappano, stanno lì a combattere, altrimenti l'Italia ancora oggi sarebbe sotto gli austriaci, sarebbe sotto quelli che governavano prima, no? Ascoltatori, Alessio Milano, vai! Ciao Cruciani, come stai? Dimmi, bene, dimmi. Senti, ma questa sera qua degli animali, adesso che quello lì si fa il partito animalista, mi sembra veramente una stronzata colossale. Tutti quanti, la maggior parte, mangiamo carne, mangiamo il pesce, ecco. Sì. Diciamo che quello che secondo me è sbagliato è che ci sia un godere nel uccidere gli animali, nel torturare gli animali. Sì. Quindi voglio dire, la corrida, la caccia, e poi abbiamo fatto pure il referendum che è passato, poi come sempre ce l'hanno rigirato come i rimborsi elettorali, eccetera, eccetera. Vabbè, ma lasciamo perdere i partiti, però, cosa vuoi dire, Alessio? Se un toro si incorna il torero, se lo merita, cazzo, io tifo per il toro. Vabbè, ma quello che c'entra, non è un altro discorso. Io tifo sempre per l'essere umano, però il torero mette in conto il fatto che può morire. A me, sinceramente, tra il toro e il torero preferisco sempre il torero, per quello che mi riguarda. Se tu preferisci il toro, sono cazzo tuoi. Ma io preferisco il toro, perché torturare un animale in una maniera così torturare, barbara, senti, amico mio, i tori non si estinguono, finché una razza non si estingue. La questione è che infliggi dolore a una creatura per niente, vabbè, per piacere. Vabbè, è che sarà mai un animale, una cosa è una di vabbè, una stronzata. No, non è una foglia, cazzo, è un animale che soffre. Ci sono tradizioni che vanno oltre la sofferenza degli animali. Quando aboliranno la corrida in Spagna, aboliranno la corrida, non piangerò. Finché c'è la corrida non ne faccio un dramma, chi se ne frega, come la caccia, capito, e altre cose. La caccia è la stessa cosa, abbiamo votato per abolire la ma caccia. Ma non è vero, abbiamo votato per abolire la caccia. Dai, Elisabetta dalla provincia di Monza, dai. Sì, buonasera Cucciani. Allora, io non posso che fare un po' di eco anche al precedente ascoltatore. Secondo me il suo accanirsi proprio nel definire un animale inferiore ad un essere umano è pressoché infantile, perché questo lo sanno i bambini, già dall'asilo, lo sanno tutti. Cosa? Che un animale è inferiore all'essere umano. Vabbè, allora ma noi non vogliamo mettere l'essere umano a paragone dell'animale, è l'incontrario, che vogliamo prendere l'animale e metterlo a paragone dell'essere umano. Cioè, un animale che viene aggredito è paragonabile a un essere umano che viene aggredito. Quindi se fra i due poi soccombe l'aggressore... Scusami Elisabetta, ma tu godi se muore un cacciatore? No, non stiamo parlando di godere. E allora solo quello No. E di Stiamo parlando allora? Di doverci preoccupare se muore il cacciatore. Ma io penso che ci siano tantissime cose per le quali dobbiamo preoccuparci, e che pertanto se muore un cacciatore nella sua attività di caccia, sì, io non godo, perché non godo della sofferenza di nessuno. Però se dovessi dire mi dispiace, non lo dico. E vabbè, tu dici e non mi dispiace. Trovo che sia sbagliato, sì. E anzi ringrazio lei, perché mentre cucinavo ci ho pensato, sì. Dico, ma ben venga uno come lei che fa tanto accanimento su qualcuno che gode di questa morte, perché risveglia un po' il pensiero di tutti noi. Va bene, ciao. Alberto Viterbo, vai. Provincia di Viterbo, dimmi. Crociani, buonasera. Vai. Senta? Sì. No, era soltanto l'intervento su Renzi, insomma. Io la penso assolutamente, e come lei, non si deve intervenire sui talk show né con nomi e né con cognomi, chiaramente. Però mi sembra che ci sia la linea continua di Renzi, che sia una linea impositiva. E ho sentito anche l'intervento successivo in cui lui manifesta un grande disturbo nel vedere che alcuni talk show descrivono l'Italia nella maniera in cui è. Ma non ho capito in che cosa avrebbe ragione Renzi, scusa, spiegami Alberto, in che cosa? Cioè, Renzi non ha ragione, trovo spiegabilissimo nella linea di Renzi, che è una linea impositiva e dittatoriale, e quindi non mi stupisce il fatto che la sua linea dittatoriale mi sembra esagerato, non è questo il punto. Beh, è una linea. Io l'ho già detto prima, adesso lasciamo perdere, è linea con il pensiero di Renzi. Non lo so, perché poi Renzi prima pensava una cosa sui talk show, adesso ne pensa un'altra. È soltanto un segno. Quando ci si lamenta che un programma descrive l'Italia dalle condizioni cattive, ci si lamenta, è comunque un inizio di una volontà di non sopportazione. Questa no, ma non è questione di volontà di non sopportazione, è semplicemente che è peggio di quello che diceva Berlusconi, cioè in fin dei conti sì, è vero. Ma poi chi se ne frega, cioè perché uno che sta facendo una battaglia, la sua battaglia per la riforma del Senato, che dovrebbe occuparsi di altre cose, si mette a parlare di due talk show, di due tre talk show, ma per quale motivo? Parlando della qualità, delle risse che si fanno, semplicemente perché si è indispettito, così dicono le cronache, così narrano le cronache. Si è indispettito per la presenza di 5 Stelle in un talk show, credo da Floris, anzi no, forse no, da Ballarò, chi se ne fotte. Non definisce questo indispettimento. Ma perché non gli consiglio di stare zitto sui talk show? Poi in realtà, ci va in quelli dove gli fa comodo e dove è più semplice andare fermo lì. La Zanzara. Allora, ci deve essere qualcosa al Tribunale di Bergamo che non funziona, perché è lo stesso tribunale, se non sbaglio, che ha condannato l'avvocato, professore, esimio Carlo Taormina per la questione della discriminazione sessuale, per aver detto qui alla Zanzara che lui non assumerebbe un omosessuale nel suo studio. È stato condannato sempre dal Tribunale di Bergamo pure Bossi per vilipendio al capo dello Stato per aver dato del terun a Giorgio Napolitano. Accadde, già questo è curioso, alla fine di dicembre del 2011, dunque ci sono voluti più o meno per decidere questa minchiata intorno ai 4 anni, per decidere una puttanata del genere, un tribunale si prende 4 anni, è l'Italia, 29 dicembre 2011, Bossi. Mandiamo un saluto al Presidente della Repubblica, d'altra parte, nomine, l'autorità non si chiama Napolitano. Ah no, non sapevo che era terrore. E abbiamo un altro terrone in studio, Luca Telese. Buonasera, ciao. Buonasera, ciao, conduttore Zanzi di Matrix. Allora, dai. Ma tu sei terrone? Quanto sei terrone? Non ho capito. Beh, insomma, quasi 100%, perché mia madre è sarda, mio padre è napoletano, quindi... Cioè tu sei un misto tra sardo-poletano. E romanista, sardo-poletano. E romanista. Il muro di Ancona, dove lo piazzano, a seconda delle volte, sono proprio 100% terrone. Ma capisci il senatur, no? Un anno sì. E 18 mesi. 18 ma dovevano mesi premiarlo, cioè il napoletano doveva avere il coraggio di dire io considero terrone un complimento. Basta questa burocrazia, queste cose. Ma chi è che è stato condannato pure per vilipendio? Credo pure Storace, se non sbaglio, no? Cioè pure Storace, credo a questo punto. Storace, sì, però è stato, mi pare poi alla fine si è riuscito a sfangarla, no? A proposito di Volkswagen, invece, lì napoletano è intervenuto. Sì, sì, a proposito della vicenda Volkswagen, so che ti appassiona molto. So che ti appassiona moltissimo. Sono in bilico alla Volkswagen probabilmente questi spot, non so se te li ricordi, spot del 2011 e 2012, ma forse anche 2013, di un tizio che si faceva chiamare, non mi ricordo come. Sentiamo degli spot in italiano. Vai. Salve a tutti, mi presento Bill Wright, consulente riduzione costi su Polo. Prima idea, nella Polo le ruote hanno 5 bulloni, se noi come altri nella categoria ne mettiamo 4, bang, 20% di risparmio. Così ci sono più vibrazioni. Ehi, la gente ama le vibrazioni, man. Tutto in una Polo è inconfondibilmente Volkswagen. Maniglie in acciaio, se le facessimo in plastica anche noi. Ehi, vai così. Devo dire la verità che non so se resisterà a questa pubblicità dei signori della Volkswagen. Ma perché ti appassiona tanto questa roba qui? Non lo capisco, a parte ma è una cosa, è un sottotesto fantastico che vedo e non tutti hanno sottolineato. Perché tu godi, a parte che adesso, aspetta, adesso un giornale tedesco ha detto che intanto voglio che le Fiat vendano ovunque, così lavorano gli operai italiani. Però la cosa che mi diverte, 11 milioni di macchine, noi fin da bambini ci fanno due palle così. Sull'efficienza tedesca. Sono serio, scrupolosi. I tedeschi hanno fatto due pippate, ma tu ti rendi conto? 11 milioni di macchine. Poi la Merkel che prima dice apriamo perché siamo seri, poi dice accogliamo 800.000, ma poi no, 1 milione. Poi chiudono le frontiere, poi dicono che roba sbaglia, poi lo invitano al convegno della CDU. Ma i tedeschi sono diventati terroni pure loro. No, voglio sentire un'altra pubblicità di queste. Vai. Mi diverte moltissimo, un'altra pubblicità della Volkswagen. Ragazzi, invece del volante regolabile in profondità, un lusso in questa categoria, che ne dite di questo pratico cuscino? No. Che in tedesco è sì? No. No, eh? Tutto in una Polo è inconfondibilmente Volkswagen. Ho sentito un forse? Forse... emissioni truccate in 11 milioni di auto. Madonna. Oh, pare che il governo sapesse, l'ultima rilevazione sì, di un giornale tedesco ha detto ma che... Ma poi una cosa così truffaldina, no? Che rompono le scatole ai napoletani per i pacchi, che sono comunque un'arte, no? E quelli addirittura la centralina entrava in funzione... Perché godi se mettevi il dottore, ma basta con questi feticci, basta! Cioè, dire, basta col feticcio dell'efficienza tedesca. I tedeschi sono ormai napoletanizzati e sono taroccatori come tutti noi. Beh, innanzitutto hai dato ai napoletani dei taroccatori, così un passato. Il napoletano che fa il pacco è sempre artista. Simone da Brescia, 800 24 00 24. Grande forma Telese stasera, Simone, Brescia, vai. Buonasera, dottor Crossani. Volevo fare un intervento sulle affermazioni del questore di Napoli su Gomorra. Sì. Che io ho trovato una serie fatta molto bene, ma soprattutto assolutamente rappresentativa di quello che succede più. Cioè, il questore ha mai provato a camminare a Secondigliano, è mai andato a Casal di Principe? Come fa a negare che la realtà non sia quella? No, ma lui dice viene rappresentata solo una parte della realtà, credo che voglia dire questo. Io trovo ridicola la polemica su Gomorra. Cioè, non si può pensare che sia la rappresentazione della realtà. E comunque una serie televisiva non deve rappresentare la realtà, è un racconto chiaramente parziale dove quelle figure lì, io le ho conosciuti tutti, quegli attori, eccetera, sono napoletani e certamente non è che vogliono ma è normale che poi gli attori, i protagonisti diventino dei divi, anche se divi cattivi. Io non riesco a capire questa cosa. Luca, che dici tu? Luca? Ma non lo so, mi sembra che questa cosa sia un po' maniera, dai, ogni volta questo fascino, ogni volta che si gira una scena di Gomorra sembra che Dio, gli attori finiscono tutti in carcere. No, perché questore oggi a Radio 24 in un'intervista ha detto che è un cattivo esempio, eccetera, eccetera, no, le solite robe, riferivo al problema dei comuni dove protestano per i set, sì. Ma cattivo esempio, basta, dai, sono 10 anni, e l'idea che il cinema è diseducativo. Lo se disse non una è volta Berlusconi sulla mafia, ti ricordi? Anni sì, fa, no? Ma che, di fiction che produceva ma lo dicono lui, tutti su qualunque cosa, se un film parla di Brigate Rosse non si può fare. Sai qual è la cosa più bella del giorno, Giuseppe? Qual è? Dimmi qual è? Anche gli inglesi sono diventati terroni. Perché? Ma scusa, ma scopri che Cameron con quella faccia da paciocco ha immerso una parte estrema della propria anatomia dentro una bocca di maiale. Dai, sono cose che se le fa tuo figlio lo frusti col gatto a 9 code e quello è diventato premier. Vabbè, ho capito. Col batacchio dentro una bocca di maiale. Vabbè, ma che c'entra? Non l'avevi detto ancora. Quelli a Zanzara, detto ieri. Sono, il Corriere della Sera mi dice ci sono pure le foto. No, ma scusami, Luca, a parte che l'abbiamo detto ieri, ma che c'entra tutti i terroni? Che c'entra terroni? Siamo terronizzati. Melissa da Trapani, dai, Melissa. Melissa è terrona. Melissa è terronissima. È terronissima. Orgoglio terrone anche tu. Mi volevo collegare al discorso dei tori. Dei tori, sì, che ci sono? Che dicono i tori? Sì. Ma non prendere in giro perché ha un accento del sud. Dico solo che è un gioco talmente stupido. Sì. Che preferire che venga ucciso il toro che è sfruttato in questo gioco, sì, è un'emerita cretinata. Melissa, cara Melissa, tesoro mio, io preferisco che vinca il torero semplicemente perché è un essere umano e dunque nella battaglia tra toro e torero, certo non ma piango. Ma sono pure essere umano, eh. Sì, essere umano secondo te, secondo le teorie. Ma come toro, essere umano? Il toro respira come il torero, il toro. Dai, no, respira come il torero. Ma non ci credi? È al di sotto dell'essere umano, al di fuori di ogni logica. Vabbè, ma questa è la cosa degli esseri senzienti, no, questa Giuseppe, teoria bizzarra. Ci stanno coglionando, ci dicono queste cose per farci arrabbiare noi che siamo umanisti, non so come dobbiamo definirci. Non sono umanisti, prima io penso uomini. Che l'essere umano, l'essere umano è superiore a tutto. Dai, basta, Melissa, sei pure del sud. Quello è comunista e lo dice perché è comunista nell'animo. Ma telese. C'entra, mo comunista? Ma tu sì. Ma che sei? Ma sì, tu lo dici perché sei comunista e i comunisti hanno sempre pensato. Ma cosa c'entra? L'ateismo. Ma cosa ateismo? Sei matto, dai. Melissa, non ho capito qual è il problema. Cioè, tra torero e toro chi preferisci? È un gioco stupido. Ma sarà stupido, che... ma a me non mi interessa se lo aboliscono, lo abolissero pure. Ma sì, tra torero e toro, finché esiste la corrida, tra torero e toro, io preferisco sempre il torero. Se muore il toro me ne sbatto i coglioni. Se muore il torero, beh, dico, poveraccio, quello comunque che è morto. Lo dici perché sei di destra, nichilista. Ma che c'entra? Ma non ho capito. È più stupido quello che dici. Melissa, quanti anni hai tu? Scusami. 18. 18 anni, già è stupendo a 18 anni ascolti la Zanzara. E si lavora ogni giorno con questi animali. Perché che fai tu, scusami? Io sono assistente in un'associazione, in un canile. E preferire che muoiano gli uomini, forse è meglio, perché sono gli uomini sfruttano tutto quello che sta intorno al. Ma a che loro. T'hanno messo dentro quel cervello a 18 anni, Melissa? Cioè che cosa t'hanno inculcato dentro questo cervello, sono gli animalisti? Dal vivente, punto. Sei ma tu te la mangi una braciola, Melissa, così per capire, te la mangi pure una vegana, braciola. Sicuro, sarà pure vegana. O un panino, te lo mangi un hamburger. Ma sì, certo. E ma allora, no, anche non tu sfrutti gli animali. Non sono vegetariana, ma preferire che sia in un gioco così stupido, preferire che quello sfruttato deve morire, assurdo. Ma non è che è sfruttato, cioè non è questione di sfruttato, è un animale, il toro, punto e basta, il torero, se vince il toro e ammazza il torero, ci sta, perché il torero sa che può morire, ma preferire che muoia il torero è ridicolo, è la rivincita, cioè è perché tu sei tifosa del più debole, dici questo, sei tifosa del più debole, fermi tutti, fermo. Sono tempi duri, eh. La Zanzara. Proviamo a richiamare un attimo David, dai, su, in mezzo alla sinagoga, dai, in mezzo alla sinagoga. Pronto? David? Pronto? Chi è? Sono io. Ancora? Ma è il datore di lavoro, scusa. Io ora ho da fare, arrivederci. Aspetta. Dovete avere rispetto. No, io non ho rispetto per queste cose. Ma figuriamoci se ho rispetto di questa cosa. Aspetta che abbiamo una telefonata da fare. No, aspetta lì. Una telefonata da fare sul serio. Fermo un attimo. Te lo chiedo per il grande popolo della Zanzara. Fermo un attimo. E abbiamo con noi Vittorio Sgarbi. Vittorio, come stai? Eccoci trovati. Parenzo, ci sei? Molto bene, sì, io sono... Anche Parenzo, ma è vero? È vero? È vero, non è una voce registrata, è lui, proprio no, lui. No, sono davvero io dalla parte dei lavoratori del Colosseo, vilmente attaccati da un'amministrazione tutto. Politica... Ancora una volta siamo d'accordo. Cioè, non mi dire, Vittorio, che tu sei dalla parte dei lavoratori del Colosseo che hanno fatto fare all'Italia una figura di merda colossale di fronte a tutto il mondo. Allora, siccome abbiamo già parlato di questo rispetto a... di Casa Monica, noi abbiamo costruito due notizie che durano da giorni e giorni, la prima è durata quasi un mese, questa dura ormai da una settimana, su niente, perché in Casa Monica non potevano essere la mafia e non potevano essere una minaccia, ma semplicemente la manifestazione sì. di una cosa che andava al di là di quello che uno si aspetta. Vabbè, e su questo siamo d'accordo. E poi però abbiamo fatto propaganda Italia mafiosa. Adesso cominciamo con l'Italia che impedisce di entrare al Colosseo. Ma siccome il Colosseo, come si può immaginare, non è Palmira, non è nel deserto, uno ha 9.000 cose d'intorno per occupare quelle due ore. Non è che è nel deserto, va a Santi Luca e Martina, va a vedere il Palazzo Venezia, va a vedere i fori, va a vedere l'Arco di Costantino, va a vedere la chiesa dei Santi Quattro Coronati. Scusa, vai tu. Adesso siamo al paradosso, scusa Vittorio, però abbi pazienza, siamo al paradosso in cui Sgarbi dice ai turisti cosa devono fare. I turisti hanno pagato un biglietto e vogliono andare al Colosseo. Non è che non ci vanno, sto dicendo che siccome l'inganno è nell'aver utilizzato la notizia sbagliata per dimostrare che in Italia chiudono ai turisti, cosa che è vera, in quelle due ore i musei. Però il significato che oggi ha il nuovo decreto che il governo ha fatto sul sindacato e contro il sindacato è di rendere servizio pubblico anche il museo. Ed è giusto, ed è bello. Però se il servizio pubblico ritarda le due ore in un museo, non è che tu non sai cosa fare. Per questo sto dicendo che chiunque va con una guida, il Colosseo è la cosa meno importante che può vedere. Come meno importante? Come meno importante? Quello che vedi lo vedi da fuori, dentro è una groviera, e vai a vedere dentro il Colosseo. Cioè, non c'è niente da vedere, è la sua esistenza, la natura profonda del monumento, quello che vedi girandogli intorno. Ma proprio per questo, se vuoi andare... Cioè, per te è inutile entrare dentro il Colosseo? È del tutto inutile. Secondo te le file davanti al Colosseo di due ore, migliaia di turisti, la gente incazzata, eccetera, sono... Una serie di morti di sonno che, invece di avere quel minimo di fantasia per fare altro, stando a Roma, sono rimasti in coda. Chi rimane in coda, sapendo cos'altro fare, è uno che non ha capito che la bellezza di Roma è tutta fuori del Colosseo. Tu vai a Parigi, cos'è il Colosseo di Parigi? La Tour Eiffel. Se tu la vedi dentro o la vedi fuori, cosa ti cambia? Andarci dentro è una curiosità. Ma quando sei a Parigi e chiusa per due ore la Tour Eiffel, vai a vedere la Gare d'Orsay, vai a vedere il Louvre, vai a vedere... Non è che a Roma non c'è niente, sei al centro dell'umanità, hai tutto da vedere e stai a rompere i coglioni per due ore. Dico, se esatto. fossero 10, fossero 5, potrei anche accettare. Dico che la costruzione è sproporzionata al fatto. Esattamente come in Casa Monica. La mafia è una cosa che uccide, non è uno che manda dei petali. Allora, se tu una cosa piccola la fai diventare enorme, sputtani l'Italia. In questo devo dire Renzi ha ragione. Ma Renzi è stato, l'ha fatto da solo, ha usato abilmente questa comunicazione per mettere nell'angolo il sindacato e fare una norma. Cioè farlo passare come quelli. L'ha fatto in modo strumentale, totalmente strumentale. Questo è certo, a posteriori è certo. Ma quello sono, posso anche essere d'accordo. Ma il sindaco Marino che riparte per l'America non ti dice niente? E quello mi sembra vero. Il sindaco Marino è il primo episodio che indica lo sputtanamento dell'Italia, perché unico sindaco al mondo che paga per andare nel suo ufficio la multa per lo ZTL è già la prova che questo può essere un sindaco. Io ho fatto il sindaco due volte, la ZTL sono io. Io ti do l'autorizzazione, non la chiedo, perché il mio ufficio automaticamente mi deve dare le minime garanzie per la mia funzione. Cominciava di lì, cioè è proprio il simbolo di quello che non funziona. Poi vai in America, vai in Africa, vai sott'acqua, è ridicolo. Posto il problema e ha pagato 1.500 euro di multa perché non aveva il tesserino. Sì, no, quello è ridicolo. Il sindaco non può pagare la ZTL, ma questo qua ma non perché è un privilegio, perché è un elementare diritto di uno che lavora lì. Ma questo qua siamo tutti d'accordo. Ma tu che Mattarella paga la multa perché non c'ha la ZTL per andare al Quirinale. Poi che cazzo di presidente è? No, ma questo d'accordo. Ma dicono che viaggia troppo, adesso è andato in America, sembra per trovare soldi per Roma o cose di questo tipo. Beh, questo va bene. Sì, ma bisogna vedere se poi è vero. Che più sta lontano da Roma meno danno fa, quindi forse il modo migliore per lui per fare il sindaco è essere altrove. Senti, nelle cronache politiche io immagino che a te della riforma del Senato non freghi assolutamente nulla. Meno di niente. Però spicca il nome di Denis Verdini, che potrebbe aiutare Renzi sulla riforma del Senato. Adesso bisogna vedere come va con la minoranza del PD, tutte queste puttanate a cui non frega nulla a nessuno. Però ecco, Verdini, il signor Verdini, come lo giudichi tu? Lo giudico spregevole, mi sembra persino peggio di Alfano. Addirittura. No, io l'altro giorno parlavo che è venuto a vedere la mostra del Tesoro d'Italia all'Expo e siamo stati lì per due o tre ore, quindi chiedeva consigli. Io il primo che gli ho dato è un consiglio tecnico, cioè? Che serve anche a spiegare, quello di rendere i musei italiani gratuiti. perché la cultura non può essere pagata. Cioè tu pensi che i musei bisogna entrare gratis? Assolutamente, siamo tornati poi ai temi suoi, dico, quello che non mi piace è che tu stai a perdere tempo, come se interessasse agli italiani, sulle riforme elettorali, sulla preferenza, sulla riforma del Senato, ma chi se ne frega? No, ma perché non possono avere due camere? E quindi ha elaborato la sua teoria. Che poi ma che ti ha detto di Verdini? Che ti ha detto e di a quel Verdini? Punto ha detto, in ogni caso io vado avanti come voglio andare, perché ho le componenti del mio partito che sono, e ha cominciato a dire i suoi, i nomi dei suoi, poi ha detto gli alfagnani e i verdignani. Cioè li ha detti come componenti della maggioranza? Sì, è impressionante. Quanto rispetto, cioè uno prende una specie di spurgo di fogna, è una cosa che inquina chiunque, e che ha fatto politica solo per i suoi affari, utilizzando Berlusconi e oggi utilizzando Renzi, anche soltanto questo passaggio dalla parte di chi vince, proprio lui è il modello del carro del vincitore, è una cosa spregevole, ma il vincitore è talmente intelligente che lo tratta come cosa sua, lo tratta come una cosa. Cioè lo tratta, come, lo tratta come un mezzo. Però come un... certo è una pregiudicatezza per me eccessiva. Nulla in politica è eccessivo. Appunto. Nulla. Dicono però... che sia molto intelligente. Dicono che sia molto intelligente. Dicono. Escludo. È molto furbo. È talmente intelligente che ha fatto perdere a Berlusconi le elezioni. Ti ricorderai 130.000 voti per vincere. Sì. Avesse fatto qualcosa che aveva un significato politico, anche, anche candidare. Cioè lui fa operazioni politiche solo per pigliare quattrini. Solo per pigliare del sesso, soldi o vantaggi. Vabbè, Vittorio, ciao, presto, se, ciao, ciao. Se ciao. Non lo sappia Renzi è singolare. Insomma. Ciao, presto, buon ciao, tanto. Vittorio, ciao, ciao, ciao. Ciao. Guardi radiofonico, com'è che si chiama La Zanzara? Solo da chiudere subito, guardi da chiudere. La Zanzara. Ormai è tutto degradato ormai. Oh cazzo, mi sono dimenticato di chiedere a Sgarbi di Grillo, dopo averlo insultato eccetera, che lo incontra come se nulla fosse. Proviamo un po' a richiamarlo. Vittorio, Vittorione, rispondi! Sì. Vittorio, oila. Mi sono dimenticato di chiederti una cosa, ma dopo aver detto peste e corna di Grillo, fascista, sì, assassino, sì, eccetera, eccetera, lo incontri e dici pure che vuoi fare un partito con lui? Ma scusa, ma non è una contraddizione enorme? No, non era quello. L'ho incontrato, ma non abbiamo mai litigato direttamente. Ci eravamo visti a Cefalù e lui fece un discorso pieno di affetto, e si sono ascoltate Sgarbi e dice delle cose che sono estremamente importanti per la cultura italiana. Poi io l'ho sempre attaccato perché trovavo eccessivo, lo trovo tuttora, il suo ossequio assoluto ai magistrati, quello che gli impone, avendo fatto un partito, la profonda disonestà di non candidarsi lui perché ha avuto una condanna. Ma dico, non è che in questo stato corrotto l'unica cosa a posto è la magistratura. Pure sì, ho capito, però questo l'ho capito. Vabbè, era solo questa la polemica. Ma che è solo questa? Gli hai detto assassino? Assassino, appunto, usando contro di lui l'arma giudiziaria. Quindi la coerenza, ma non è che questo ha rovinato i nostri rapporti, nel senso che lui dice una cosa e le dico un'altra. In politica le cose che si dicono non sono mai delle verità rispetto alle persone. Cioè, però dei suoi hai sempre detto che sono stati eletti, non contano un cazzo. Sì, è più di così, i voti li ha presi lui. Io sono onesto di così, cioè io metto in lista te, poi esce a Parenzo perché tu ti ritiri, ma che discorso è? Io voglio te, non voglio Parenzo, in ipotesi. Lui ha ingannato gli italiani perché ha preso i voti e ha mandato avanti persone che non ha mai visto. Questa è la sua disonestà, che ho sempre manifestato. Ma perché non si candida? Perché è stato condannato. Ma che ti ha detto? Che ti ha detto di... Ha detto che è vero che anche molti magistrati sbagliano, ma loro hanno bisogno di avere un criterio e ha scelto quello. Che è quello giusto. Quello di dire chiunque abbia una condanna anche per l'ombra di suo zio non può fare niente. Che discorso, che logica è? Cioè, tu perdi delle capacità, delle esperienze, perché accetti che il magistrato, mi sembra veramente, è quello che è capitato con De Luca. Tu dici che loro, i grillini, danno sempre ragione ai magistrati, questo è il punto. Danno sempre, questo per me è insopportabile. I magistrati hanno ragione quando hanno ragione e hanno torto quando hanno torto. Il caso di Ingroni è problematico. Vabbè, dai, siete di nuovo... Pensa al caso Contrada. Che dici, Parenzo? Non ho capito. No, dico, se ci pensi, non è così lontano. Cioè, fare un partito Sgarbi-Grillo, possono stare insieme benissimo. Se stanno insieme Bersani e Renzi, che oggi sono... tra i più lontani in assoluto, non si capisce perché due persone come, che sono due iconoclasti, che sono comunque due fuori dagli schemi, non si capisce, sarebbe meraviglia, sarebbe più coerente insieme Sgarbi e Grillo di ma non, quello d'accordo esempio, il problema è che appunto quelli credono nei magistrati fino alla morte, non vogliono persone che abbiano un minimo di condanne eccetera eccetera, per cui qualsiasi condanna sia ma questo vale per lui, cioè lui mi ha detto io non sono mai candidato perché ho una condanna, però hai preso per il culo il mondo, hai fatto la lista Grillo, non hai fatto la lista anonima, hai capito? C'è il paradosso è che lui ha rubato i voti attraverso la sua faccia, non candidandosi, un po' per superiorità, un po' perché è stato condannato, dice no io quando condannato non mi posso candidare, ma dove cazzo viviamo? E tutti i grillini che sono in Parlamento come sono secondo te? Alcuni bravi, alcuni meno bravi, sono legati al caso, è meglio fare un partito in cui estrai i candidati dall'elenco del telefono, li fai diventare parlamentari dall'elenco del telefono. Questa sarebbe una grande provocazione, sarebbe stata una grande provocazione. Sarebbe un vero partito, li scegliamo a caso, ogni 500 nomi prendo uno dall'elenco telefonico, è molto meglio, no? La stessa cosa che fa Grillo. Vabbè, ciao. Ciao. Da Bologna, vai Luigi. Ciao. Dimmi, alza la voce. Ma però, sembri morto. Sì, era in controtendenza al discorso della Volkswagen. Perché? Perché, diciamo, prendi gli Stati Uniti, condannano la Germania, sì, che con fare teutonico certificano sicuramente l'errore fatto, diciamo, sì, e lo confermano anche. Beh, secondo la Die Welt, addirittura un giornale tedesco, il governo sapeva della truffa delle missioni. Cioè questa, insomma, truffa delle missioni. 11 milioni! 11 milioni di pezzi. Saranno delle certificazioni. Cioè tu protesti perché Telese gode? No, questo? Non protesto, dico soltanto che adesso diamo tutte addosso quel cane, no? Che è la Volkswagen, perché è il primo della classe, non vedevano l'ora che un tedesco sbagliasse. Beh, certo, no? Certo, ma è giusto. Il primo della classe non passa i compiti, quando lo becchi lo meni. Questo debito qua lo paghiamo tutti in percentuale. In che senso lo paghiamo in percentuale? Lo paga la Germania, al massimo la Volkswagen, insomma. La Germania, le borse vanno giù, che pensi? Ah, vabbè, da quel punto di vista. Le azioni, dei soldi in banca. No, io non ho azioni, me ne sbatto i coglioni. Vabbè, per cui... ma chi se le ha lo prende in quel posto. Cioè, ma a parte quello sarà un po' di meno perché... venderà meno auto. Vabbè, adesso noi francamente dell'andamento delle borse e Telese un po' ce ne fottiamo, insomma. Ma certo. Okay, cioè che le borse abbiano perso, che la Volkswagen abbia perso il 35% in due giorni, che le borse vadano un po' KO per questa vicenda, sinceramente. Sì, ma più dritta, vendiamo più 500x e guadagnano i lavoratori italiani, vai. Come? Vendiamo più Fiat e guadagnano i lavoratori, cioè, italiani. C'è più Marchionne e meno Volkswagen, dice Telese, cioè, incredibilmente. Dice Telese, incredibilmente. Sì, vai, Maurizio, Roma. Maurizio, eccomi. Dimmi. Mi stupisco di uno come Sgarbi che difende i lavoratori del Colosseo. Beh, intanto sicuramente ce n'è un altro qui, comunista. Telese, è la cosa sicuro più facile attaccarli. Scusami, ora gli chiedo pure l'elenco dei nomi. Un'assemblea autorizzata. Era una trappola. Sono un turista americano. Sono dei polli solo perché hanno chiesto l'assemblea. Gliel'hanno autorizzata. Ho quelle due ore a disposizione. Che faccio? Vado lì? No, senti Maurizio, ricomincio da capo. Me ne ritorno in America. Non ho capito, tu dici. Figura di merda. Ma ha ragione Maurizio. Se uno ha tre giorni, quattro giorni a disposizione, quel giorno aveva previsto altro che, come dice Sgarbi, vado in giro lì a trovare altre meraviglie. Che ne sanno quelli della chiesa lì, eccetera. Vogliono andare a vedere il Colosseo. Se ma il Colosseo Sgarbi non piace a Sgarbi, chi se ne frega? Il problema è che se ti autorizzano a fare un'assemblea, vabbè, tu sei un al pirla turista che americano, ma che gliene fotte? Ma è la legge, è garantito. Ora chiedono pure la nomi. Legge, i gran cazzi della legge, la legge va cambiata, eccolo, è l'ubriacone, vai, è sbagliata e allora no Maurizio, ragiona su un altro livello, no, a livello ma un ministro, un sovrintendente non possono ragionare così, caro. No, ho capito, ma il problema lì è che ci sono, è possibile, se 10 persone decidono di fare una riunione, è possibile che si chiuda il Colosseo. Questo è il punto fondamentale. A te pare normale, Telese, a te pare normale? No, ma non sono 10 persone, sono delle persone che secondo me hanno fatto un regalo, nel senso devo chiedere l'assemblea alla fine del turno, quando vogliono, ma è stata autorizzata, è stata una bellissima trappola, scemi loro che ci sono caduti, ma il diritto cioè avevano. Ma il diritto, nessuno nega il diritto. Io domani voglio invitare una famiglia ai siriani in studio, ho dovuto sentire 12 famiglie perché molti avevano paura delle minacce dell'ISIS, delle vendette, poi finalmente ne convinco una, devo chiedere un'autorizzazione alla direzione provinciale del lavoro perché il minore potrebbe fornire attività lavorativa e non lavora, viene come testimone, è un profugo. Vabbè, questo... capito? E no, questa è la legge, lo dico al signore lì, questa è la legge. E allora, una volta che la legge, e allora uno, la legge non può dire che la è una dobbiamo cagata. Rispettare tutti, anche Maurizio, quando non ci piace. Maurizio, sono dipendenti pubblici e forniscono un servizio pubblico, non e allora vietali l'assemblea l'orario del servizio. E allora vietali l'assemblea, gli dici scusa, esatto, non ti faccio fare l'assemblea. Hanno precettati, esattamente. No, è la vigliaccheria dei capi, garantito. Perché allora il capo hanno deve avere le palle di fare vita. Questo, il soprintendente doveva dire non vi faccio fare l'assemblea a quell'ora, esatto. La fate a un'altra ora. Non ha le palle per farlo. Eh? Non ha le palle per però farlo. La vigliaccheria dopo di scaricare colpa su loro doveva avere le palle, esatto. Qui in questo paese non c'è, la gente si piglia le responsabilità. I sono il soprintendente, mi dici di fare l'assemblea, te la vieto alle 9, te la faccio fare alle 6, te la fai dopo l'orario di lavoro, no, durante, ma alla fine del turno, così non dà fastidio. E che non dà fastidio, alla fine del turno è sempre servizio, che ragionamento è? Vabbè, allora sei autorizzata, se è possibile, se tu al tuo lavoro non puoi fare l'assemblea. Fermo lì, Paolo da Milano, grazie Maurizio. Paolo. Sì, pronto, buonasera. Dimmi. Intervengo solo per dare un po' contro questi pseudoecologisti, ho sentito tutti che difendono questi torieri, i tori dalla corrida. Io sono un cacciatore, sì. Sono un po' incazzato perché cosa cacci? Quando vado a caccia, io un po' di tutto quello che capita, le trefagiane solamente che non c'è più la massa qua in provincia di Milano, quindi pago 500 euro all'anno per andare in giro. Io che mio dici? Amico, che rumore hai fatto, Luca? Che rumore hai fatto? È venuto a ridere, una sorriso. È una risata stragavetta. Mi piace che sono finiti le prefagiani. Le prefagiani sono finiti. E dunque? Non c'è più niente. E dunque ci danno contro, colpa del degrado ambientale, quando noi invece siamo forse gli unici che... Vabbè, adesso non c'è bisogno di fare la difesa della caccia, lo sappiamo bene che comunque... Fa bene pure alla... contro la caccia. E dunque 500 euro all'anno paghiamo. E quindi niente, quindi io sono pro caccia, giustamente come dicevi te, gli animali rispetto, trattati bene, ma fino a un certo punto noi siamo esseri umani e loro sono animali. Quindi sono va bene, Giorgio Torino, vai, Giorgio. Cruciani, buonasera. Vai, vai, cacciatore buonasera pure tu. Anche a Telese. Allora, buonasera. Io volevo intervenire su quel simpatico personaggio che dice di godere con i cacciatori morti, Sì, sì. Cioè, io credo che per quanto ci consideriamo evoluti, per quanto siamo intelligenti e tutto, rimaniamo comunque sempre animali. E la caccia o la pesca, bello, comunque rimane e fa parte del nostro istinto primordiale, cioè... Istinto primordiale, mi piace. Cioè, adesso cacciare va bene, però cioè deve essere fatto con delle regole, cioè cacciare il leone, anche ma se guarda che ci cioè, sono io non me lo mangio il leone, andate guarda a cacciare un fagiano o un allora cinghiale. Amico mio, il leone, io sono a favore anche della caccia al leone, per un motivo molto semplice, ovviamente quando è regolamentato, non i bracconieri. Sì. Ci sono dei safari che vengono organizzati apposta, io non ci andrei mai, a me fa orrore l'idea di cacciare anche di sparare a un fagiano, non mi piace, ma non perché è un fagiano, perché non mi piace proprio sparare, l'idea di sparare. No, ma anche a me allora, non piace. Il leone, capisco che la caccia è utile per certi no, aspetti. No, ma il leone, tipo, a parte che non si estingue, so, è difficile che si estingua. Gli animali fanno danni, tipo il cinghiale che sono raddoppiati in esatto, 15 anni. Io il leone, perché non condanno chi va a fare queste cose? Però non il leone, cioè chi lo caccia sul safari, che sta lì sotto la pianta, che non dorme tranquillo. Perché? Ma non lo condanno chi va a caccia al leone, semplicemente perché molti stati, tra l'altro, guadagnano un sacco di soldi dalla caccia ai leoni, alle giraffe, eccetera, eccetera. Non so se poi si possono cacciare, non credo, le giraffe, insomma, i rinoceronti, gli elefanti. Ovviamente quando è controllata e quando ci sono dei numeri ogni anno di animali che si possono ammazzare. Cioè tu ammazzi là, incassi un sacco di soldi, lo Stato, le organizzazioni, incassano un sacco di soldi e va bene così. Poi se decideranno che non si può più cacciare anche in questo modo, va benissimo, per carità, non ne farò un dramma. Ma non mi sembra nemmeno un dramma il fatto che si vada a caccia di leoni. Ma si va a caccia di leoni quando è regolamentato, non naturalmente in maniera illegale. Fermi tutti. Come siete pazzeschi. Giuseppe, sai che sono innamorato di te. La Zanzara. Allora, senti che ha detto la tua amica Boldrini, Luca, il presidente della Camera, in questa sua follia di chiamare al femminile, intanto devi staccare un po' ho sentito. Benissimo, perché se no sento un rumore pazzesco. Nella sua follia di utilizzare al femminile qualsiasi cosa, cioè tutto va declinato al femminile, è incappata in questa roba qui, perché voleva, pur di non dire precursore, era una donna l'oggetto della discussione. Precursrice. No, ma si dice precorritrice in realtà, mi dicono, è precorritrice. Senti che ha detto. Noi dobbiamo rilanciare queste figure perché le giovani donne hanno bisogno di esempi femminili forti. E allora Eleonora è una precursitrice in materia di diritto. Precursitrice e inciampa bello, pure! Bello, neologismo. Ma che bello, è bello! Forte a Boldrini. Ma è forte che precursore, si dice Eleonora, precursore. Eleonora! Al massimo si dice, mi dicono precursitrice, mi suggeriscono dalla regia, io non so un cazzo, certamente no, precursitrice. Precorritrice, l'avevo scritto male, precorritrice. Fammelo risentire che godo, ti prego, perché quando uno si fissa su questa cosa del femminile e poi inciampa, io godo, stavolta godo, sì, non godo come Rizzi che viene per la morte dei cacciatori o ha un orgasmo per la morte dei cacciatori, godo per la Boldrini che sbaglia. Noi dobbiamo rilanciare queste figure perché le giovani donne hanno bisogno di esempi femminili forti. E allora Eleonora è una precursitrice in materia di diritto. Vabbè, robetta, dai. Robetta, perché è tutta robetta? Perché non dici che quei poveracci non li pagavano da un anno? Ma che devi fare? Aspetta, non ti pagano da un anno? Il pubblico almeno fa una riunione per dire gli straordinari. Ma gli straordinari è lavoro. Gli straordinari. Gli straordinari. Bisognerebbe discutere di come vengono organizzati gli straordinari, di quelli imboscati. Di quelli imboscati. Mamma mia, siete proprio comunisti, non c'è niente da fare. Cioè, avete il comunismo nel DNA, non c'è niente da fare. Proprio non vi esce dalla testa il fatto che uno non può bloccare il Colosseo, non può bloccare. Ti ho già detto come la penso, dovevamo farla dopo, però avevamo ragione. Allora, se non l'hai sentito, ma sicuramente l'hai sentito, ti voglio fare riascoltare però la cosa di Renzi sui talk show, perché bisogna che tu dici la tua su questo, perché sei direttamente interessante. Senti. I talk show hanno i loro problemi. Se alla fine i talk show di martedì scorso, tutti e due, fanno meno di Rambo, no, non c'è da ridere, è un dato di fatto. Se tutte e due i talk show fanno meno della 107esima replica di Rambo, evidentemente che replica per replica, trama conosciuta per trama conosciuta, emozioni già viste per emozioni già viste, finale che è sempre lo stesso in tutti e tre i casi, almeno si va nella storia scritta meglio dagli americani. Che tristezza, che dici tu Luca? Beh, intanto noi a Rambo li facciamo un culo così. Cioè voi di Matrix dici? Questo Rambo, eh? Quello mitico di Carlo Verdone. Ma voi chi? Voi... Se io ci avessi avuto la faccia troppo buona, i ragazzi del Bronx non l'avrei fatto. La vendetta del Cobra non l'avrei fatto. Ma soprattutto non avrei fatto la paluta del Caimano, perché tutti lo sanno quello che mi è successo in Rhodesia dentro quella paluta. Tutti, pure i sassi. Ma fammi capire che te è successo in Rhodesia, che noi sappiamo neanche quando sta. Un ponte italiano è alto 40 metri, va bene? Forte, eh? Che è il Rambo di Verdone. È il Rambo di troppo forte di Verdone. Ma voi di Matrix fate un culo così, dici? Ma certo. A parte il fatto che Renzi, mi dispiace, non si è preparato, perché proprio i peggiori sono quei long seller pazzeschi, con per esempio la 107esima replica di Trinità è la cosa più temibile di un talk, di un, che so, di un realitino appena messo, esatto, in campo. Sì, sono quelle cose che la gente li sa a memoria e se li rivede. Non ti nascondere, dai, che pensi di questa uscita di Renzi? Dai, ma tutto il male possibile. Ma sta un po' sbarellato. Ma cioè veramente, siccome quei talk lo criticano o non suonano il violino, allora sono diventati una schifezza. Ripeto, ma perché non viene a Matrix? Funziona. Vogliamo dire una parola definitiva? Ma non lo so, ogni cosa. Volta dici questa cosa e ti impressiona molto, ma non va in tantissimi altri posti, eh? E perché no? Ma noi ci ha pure regalato due interviste, bontà. Vabbè, sua. Perché quindi, non è venuto? Ottimo. Ma non lo so, io fra l'altro non lo dice, non, cioè, lo spiega. Cioè, che cosa ha contro di te? Cioè, cosa ha contro Telese? Ma penso, ma ripeto, lui non mi ha mai parlato di questo. L'ho incontrato varie volte. Non messaggi con Renzi, dice, non ti mandi messaggini con Renzi? No, messaggini, come sai, li manda ad altre persone. No, ma una volta mi ha detto, no, non è vero, non c'è niente. Però io so, perché i suoi mi hanno ventilato, che è seccato per due cose, che una volta... soprattutto una, che era l'ultimo giorno della campagna primaria, gli chiesi quanto aveva speso di campagna elettorale in onda. Non mi pare una cosa gravissima, però si era un po' seccato, si era un po' storto. Ma qui ogni domanda, Giuseppe, si paga, dai. Un po' si paga, pazienza. Matteo, provincia di Messina, vai. Ascolta, Cruciani, mi chiamo in merito al discorso di Talk Show, no? Sì, sì, sì. Da permettere una cosa, che io ti ascolto tutte le sere, tutte le sere, finisco di lavorare alle 6:30 e inizio la zanzara tutte le sere. Bene, che ti ascolto. Bene. In ogni caso io... Ma scusa, ma non sei tu quello che ci ha raccontato una volta delle minchie sul Duomo? No, non sei tu. No, le minchie sono... Io sono siciliano, so... Beh, appunto, sono le minchie sul... No, non mi ricordo, era uno di Messina che chiamò raccontandoci che gli faceva orrore il Gay Pride perché proiettavano le minchie sul Duomo. No, guarda, io sono favorevole a queste cose, io non sono una persona... Ti piacciono i froci, insomma, dai. No, a me non mi piacciono i froci, ma non sono neanche razzista, questa è una cosa loro. Ma il razzismo adesso è un'altra cosa. Ti piacciono un po', ti piacciono un po' le checche, dai, i froci, ti piacciono? No, guarda che le checche a me non mi piacciono, a me piacciono le donne. Guarda, ne ho cambiato, sai quante, io ho una compagna qua da 2 anni, ne ho cambiato, sì. Sai quante. Quante ne cambiato? Passami la compagna. Ne ho cambiato 7-8 in un paio d'anni. Quanti anni hai, scusami? Io ho 64 anni. A 64 anni ancora trombi? Sì, se vuoi te lo faccio dire alla mia compagna. Ma Viagra o Cialis? Viagra o Cialis? No, ascolta. Tra le compagne qua mi dice mi rompe le scatole, va tinne, va dai. Ma passamela, passamela. Te la passo, Maria. Certo, Maria, ottimo. Maria, quanti paura, anni ha? Paura, ma che paura, quanti anni ha Maria? Luciano, giornalista, vieni qua, ha paura. Ma figuriamoci, no, quanti anni ha? Che ce l'ha con i tori. Aspetta, questa qua è di destra, io sono di sinistra, invece ci ammazziamo dalla mattina alla sera, ci ammazziamo, penso un po'. Quanti anni ha? Quanti anni ha questa signora? Maria ha 55. 55, cioè 10 anni di meno. Ma è una gran bella ragazza, sai, una bella fighetta. Ragazza, sì, 55 è giusto, ragazza. 55 è giusto, ragazza. Ancora, guarda, Maria, 55 anni. Bella, sinistra, guarda, è una grande ballerina, piace ballare. Piace andare tutti i sabato e domenica andiamo a ballare. Ma com'è? Soda. Luciano, cosa vi devo dire? Questa qua si vergogna. Cosa ma che si vergogna? Chiamela, Matteo, è su, dai. Maria, ordina, e cazzo, non c'hai sto potere, amico mio. Pronto? Oh, Maria, carissima. Buonasera. Ti presento anche Luca Telese, che è qui con me stasera. Maria, buonasera, si sente a rischio. Questo ne ha chiamate 12, ne ha cambiate. Buonasera. Ha detto che ha cambiato un sacco, negli ultimi 2 anni ha cambiato un sacco di compagni. Lei le conosce, le ex, le incontra? Qualcuna. Ma com'è che scusa, com'è che riesce a cambiare così tante donne a 64 anni, Matteo? Che cosa ha di particolare? Ormai non ne cambia più. Ormai non ne cambia più, tu l'hai inchiodato. Ma come mai ne cambia così tante? Che qualità ha? Ma perché lui è divorziato, quindi era da solo e quindi ha fatto quello che ha voluto. Ho capito, però com'è che ne cambia di continuo? Cioè, qualche qualità. Vabbè, ma ne cambia, ma non ci stava insieme. Che faceva? Non è mai stato con una a casa con una. Ah, non conviveva, dici tu. Non conviveva. No, e non che conviveva. Faceva? Zoom e basta. A casa sua. Però zoom e basta, cioè tromba. Ah, non lo so. No, ma io per carità uso un linguaggio con lei molto corretto, non voglio esagerare, eccetera. Ma qualche qualità ce la deve avere nascosta sto Matteo, amica mia. Una qualità ce l'ha. Beh, certo, qualcuna ce l'ha. Ecco, ma per esempio, facciamo una cosa. Il fatto è che della sinistra io sono della destra, quindi. Cioè, tu chi voti, Maria? Io sono, non ha importanza chi voto, io sono più dal centro, batto per la destra. Adesso chi lui ti dal piace? Dal centro va verso la sinistra. Adesso chi ti piace, per esempio, come leader politico in Italia? Per come sottolineare. E non lo dico. Ma come non lo dico? Come non è che sei cosa? No, non lo dico. Capito, ma capito. Berlusconiana, ho sentito. Berlusconiana. Berlusconiana. Berlusconiana. Ma no, non c'è più Berlusconi. Non c'è più, ma veramente c'è ancora. Come? C'è ancora, signora. Però effettivamente. Non c'è più. E Salvini non ti piace, Salvini? No. Non ti piace Salvini? Non ti piace? No, vabbè. Qualche idea, ma per il resto no. Per il resto no, vabbè. E lui invece è di sinistra? La Meloni, ma sì, lui non è proprio di sinistra, lui è rimasto al vecchio comunista. E come non è di sinistra? Sì, è rimasto a 50 anni fa, ascolti, perché io sinceramente nella politica non ci credo più. Non ci credo più, poi in tutte le trasmissioni si parla sempre della stessa cosa, si girano la palla, prima c'eri tu. Ha ragione Renzi. Prima c'eri tu, e questo che vuol dire? Che non si fa più niente? Brava, perché siccome prima c'era quello, non faceva niente, ora che mi dice a me, non faccio niente nemmeno però, io. Però scusa Maria, adesso parliamo di cose serie. A letto com'è Matteo? Eh? A letto Matteo com'è? Ma scusa, stiamo parlando tipo di un altro argomento. Appunto, andiamo su cose più serie. Cambiamo. No, questo glielo dice lui. No, ma com'è? Cioè, se non lo sa lei, sessualmente, signora. Com'è, Matteo? Deve essere. Facciamo che glielo. Cruciani, sono le mutandine, sono dovuto uscire dalla roccia. Cruciani, sto morendo dalla fretta. Certo, che siete mito, sono le mutandine. Ma perché? No, ma vogliamo Maria, almeno un. Scusa, così, ma un'idea. Sesso, a letto, come mai ancora a 64 anni, Matteo? Guarda che io non è che sogno un mandrillo, per carità, ma 2-3 volte alla settimana è normale per me. 2-3 volte a settimana a 64, mortacci, oh Matteo. Ma una passa 65. Oh. Ma scusa un attimo, ma come fai con la stessa? Ecco, questa è una mia curiosità, Parenzo. Sì, Parenzo, Luca. Luca. No, Luca, perché la questione è molto semplice. Anche Telese è un monogamo. Purtroppo c'ha questa malattia, che vuoi fare? È monogamo pure lui, immagino, da quello che, da come lo conosco, eccetera. Luca Telese è monogamo, cioè non tradisce, giusto, Luca? A quanto pare sì. Sì, è monogamo, eccetera. Matteo, tu che sei monogamo oppure c'hai la cosa della. No, questa qui Maria mi ha cambiato totalmente. Guarda, io ho fatto una vita per oltre 40 anni. Facevi lo schifo, vita, diciamo. Facevi lo schifo, diciamo, parla in siciliano, facevi così in fe. No, facevo, io giocavo a calcio, ho fatto una società sportiva per oltre 25 anni. Ho fatto prima il calciatore, poi ho fatto il dirigente. Ma che c'entra questo? Per rimorchiare. Tu dicevi un sacco di donne. Per rimorchiare, ma oggi come oggi non è difficile rimorchiare, guarda. Vabbè, ma ti rimorchiano loro, perciò è inutile che tu ti metti là. L'importante è che tu hai 100 euro in tasca e sei a posto. Una bella macchina, beh, questo qua. Bello, mi piace, vedi le radici dei comunisti del sud. È l'Italia, questa è l'Italia, capito? L'Italia, vero? Provincia di Messina, dove? Matteo? La sinistra italiana. Matteo, provincia di Messina. Guarda, dove? Mi sto pisciando addosso, sono fuori, sento freddo. Piscia, vai a pisciare un attimo, cioè, porta il telefono, vai a pisciare. Voglio sentire la pisciata in diretta, ti prego. Sì, vabbè. Fammi sentire la pisciata. Vabbè, Luciano, ma devo dire una cosa e poi magari puoi sentire la pisciata in diretta, anche esatto. Io un manico, davvero. Voglio che tu mi dici quello che cane, guarda, io ti conosco bene, ti ascolto tutto. Scusa, Matteo, aspetta un attimo. Allora, tu mi devi dire quello che pensavi, quello che volevi dire all'inizio, cioè su Renzi, credo volevi intervenire, no? No, volevo intervenire sul talk show, specialmente. Sì, sui talk show, però dimmelo mentre fai la pipì, ti prego, fammi godere un attimo. Voglio. Come? Mentre fai la pipì, siccome è urgente, cazzo, la devi fare la pipì o no? Sarà urgente sì, o no? Ma vabbè, sento rumore, che hai? Un microfono sul tuo gabinetto, no? No, non ho il microfono nel gabinetto, però si sente la pipì! Quello tossisce in onda, guarda. Vai, Matteo, allora, mettiti là vicino, ti prego, ti scongiuro, voglio che tu. Hai urgenza o no con sta vescica? Hai Parenzo, là, chi hai? No, Telese c'è. Cioè. Luca Telese, lo ascolto. C'è Luca, che lo ascolto, lo vedi in televisione. Ma ti tira la vescica, ti sta tirando adesso o no? Cazzo, io forse sono maniato. Vai! Che fai? Ma fai la doccia, mi devo lavare. Ho capito, ma vai a scaricare sta vescica, ti prego. Cazzo, uno non può ritardare. Guarda che fa male. Io vengo da una famiglia di urologi. Fa male ritardare la pipì. Fa malissimo. Maria, sai cosa? È vera sta cosa? Che ti ha detto Maria? Sì, certo. Maria, ma che sei una persona seria pure no? Chi ha detto? Conosce, amici, ma non è serio. Spiegaglielo a Maria. Di che cosa sei capace? Tu sei capace tu. Allora, ragazzi, spero che non si sia ancora. Allora, aspetta altri 3 minuti, ti prego. C'è la pubblicità, però pisci dopo. Tieni, resisti. Tieni ancora un po'. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. La Zanzara. Tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai. Questa trasmissione è massacrata. Eccoci qui, Luca Telese, negli studi di Roma, ma soprattutto, caro Luca, Matteo e Maria. L'ha tenuta 3 minuti? Matteo? Sì, Matteo. Sì, sono a Corellina, sto aspettando. No, ma l'hai tenuta o no, la pipì? Ora, sì, no, sì, ci mancava, faceva addosso. Ma l'hai fatta allora? L'hai fatta? No, ma quello, ma lo dovevi fare in diretta, hai distrutto tutto. Ma non senti di aver deluso? Maria mi sta dicendo, ma questo qua è maniaco. Ma non hai pensato a tutti gli italiani collegati alla Zanzara che aspettavano il tuo momento? Aspettavano quel rumorino, sì, sai? Non ti preoccupare, non è che avevo un rubinetto qui via, l'aprivo. Quando si salvato, stavo a fare il basso. Però scusa Matteo, sai che emozione, che cos'è sentire al telefono con la gente collegata che sta in macchina eccetera, sentivano te parlare di Renzi e nello stesso tempo quel rumorino della... No, va bene. Vabbè, allora no. Sei comunista, allora, ha detto Maria. Maria, dimmi. Ah, perché è una bella picchia che aspetto. Ascolta una cosa, io telefono in merito a talk show. Sì, questo l'abbiamo capito, è mezzo talk show. Ma era più interessante la cosa di prima, che tu sei comunista, mentre lei è Berlusconiana. Dal centro va verso sinistra. Io ero marxista-leninista, facevo un marxista. Sì! Io frequentavo Mario Capanna, quando quello che tu lo critico ogni tanto, era a Milano nel 68. Matteo, ma tu che fai di mestiere, se ancora lo ne fai uno? Io faccio l'artigiano marmista. Il marmista, beh, ma siamo a top. Io faccio le lapidi per i cimiteri. Mamma mia, tocchiamo se le palle. Marmista, comunista, lapidista. Il marmista. Mista, comunista, marxista, leninista, capito Matteo? Ma che sta facendo Maria adesso? Ma in Sicilia a che ora si mangia? Maria cosa sta preparando da mangiare, Chiara? Però Maria è rimasta turbata da questa tua richiesta di esibizione. No, Maria è una ragazza molto semplice. Cioè, ora mi ha chiesto, ma alla radio ci sentivano anche qua a Milazzo? No, in tutta Italia ti sento. Matteo e Maria, vabbè Matteo ti saluto, va, passa una buona serata. Mi Giuseppe, una cosa seria, continuo a ricevere tanti messaggi di persone turbate, ora da uno mi dice avete danneggiato tutto il mercato dell'automotive lì alla Zanzara, ma no, tu senti questa responsabilità sulle spalle? Ma figuriamoci, zero, totale, perché cosa abbiamo detto? Perché tu godevi per la Volkswagen? Sì, ma poi dice danneggiate tutti, ma perché noi danneggiamo quelli che fanno i truffatori, la taroccata? Poi scusa, Telese, non è che devo difendere io Telese, non è che vuole la distruzione del mercato dell'automobile, no, della Volkswagen. No, io voglio che vendiamo le 500X, ma le macchine italiane, ma a me non me ne frega niente nemmeno delle macchine italiane. Io vabbè, ma possiamo dire che quelli taroccati non vendono, giusto? È il mercato, certo. Santo Dio. Massimiliano, vai, Roma. Buonasera, ciao, ben trovato. Matteo, Luciani. Ciao, Matteo, ci sei ancora? No, se n'è andato. Massimiliano, porca dai. Porca miseria. Buonasera a te. Vai, Massimiliano, dimmi. Ciao a te, un saluto anche particolare a Luca Delete, che conosco bene, perché abbiamo fatto parecchi raduni con il Maggiolino. Oh, io, Luca, ecco. ben trovato a te. Ma io faccio i raduni con Enrico e con i nostri grandi. Fai il raduno con il Maggiolino, esatto. Volkswagen? Certo, io ho un Maggiolino, la mia prima macchina. Cioè tu hai la Volkswagen, è due ore che getti merda sulla Volkswagen. Ma quelle fatte bene d'un tempo, stai parlando con uno dei più grandi esperti, fatti dire due cose sul suo. Massimiliano, ma anche tu sei nel club Volkswagen? Massimiliano, sì, una leggenda. Con l'USA, il Maggiolino Club Roma, e facciamo un sacco di giretti, insomma. I raduni, io scopro delle cose italesi pazzesche. Ho scoperto che ha un figlio che io ho scoperto che ha uno straordinario figlio che è venuto che qui va alla Zanzara. Sempre sulla macchina di Massimiliano, Giuseppe, perché lui è molto amato dai bambini in questi raduni. A Massimiliano, che vuoi dire? Niente di particolare, parlavamo proprio con te in uno degli ultimi raduni. Alcuno parecchio tempo fa dei problemi proprio che la Germania stava avendo nella cultura della crescita economica che in questi anni ha avuto. Vabbè, dopo. E questa è una manifestazione palese, cioè pur avendo il Maggiolino ed essendo appassionati di Volkswagen, non possiamo non dire che la Germania ha delle difficoltà proprio nella gestione del potere anche economico. Cioè, che non sopportate i tedeschi voi, in realtà. Ma lui ci abita, pendolare. Fallo dire a Luca. No, è curioso, racconta la tua storia. Sono tutti... Allora, devi sapere, Giuseppe, c'è uno e c'ha pure il Crafter Wagon con la mitraglia sopra, cioè siamo a questi livelli nel nostro club. Cioè? Il Maggiolinus, cioè? Di Mario. Cioè, che c'ha sopra? Non ho capito. È stato fatto un Maggiolino anche blindato, e siccome sono tutti collezionisti, lui c'ha una bellissima decappottata e io il mio un po' poveretto, ma c'è uno pure che c'ha quella con la mitragliatrice. Ma quella dei tempi della guerra. Sì. Come si chiama, carico. Max, quella blindata? Oddio, la pescaccia. Vedi? La pescaccia. Si apprendono delle cose incredibili. Ciao. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Il peggio di Radio Padania. Padania, bella e libera. A proposito di quei due miserabili della Zanzara, che ormai secondo me hanno un calo d'ascolto notevole, perché sono impresentabili. Padania. Polonia bella e libera guardava. Ancora un ascoltatore. Io ricordo quando ascoltavo la trasmissione a quell'ora anni fa, era condotta magistralmente dal grande Santalmassi. Questo disgraziato di Cruciani l'ha massacrata, l'ha distrutta per invitare dei trans, per invitare morbosamente, fare delle domande sui gay, non parla che di sesso, è un erotomane che finirà in uno stato di delirio prima o più rinchiuso da qualche parte. Libertà, a parte che c'è la libertà pure di finire male nella vita, erotomane. Beh, è stupenda questa ascoltatrice, è stupenda. Cruciani erotomane finirà rinchiuso delirante da qualche parte. Prima c'era Santalmassi che ha fatto una grande trasmissione, stupenda, stupenda. Oh, il peggio di Radio Padania continua con Sammy Varin. Vuol dire da una parte che la redazione della Zanzara sono quattro ragazzini che giocano a ping pong in redazione quando non c'è Cruciani, quando arriva lui si unisce pure lui a giocare e passano la giornata ad ascoltare così Radio Padania. No, veramente ti sbagli, caro Varin, abbiamo altro da fare, però abbiamo ideato questa rubrichetta e voi andate matti per questa rubrica perché vi porta su un piano dove non siete mai stati, dove non siete mai stati. La mandiamo anche a Matrix. Che ci ha reso schiavi. È già comunque in uno stato di delirio. Mi dicono appunto che la prima cosa che fa Cruciani appena entra in redazione, prima di tutto si fa la partitina ping pong con i colleghi giornalisti che sono lì a giocare tutto il giorno, e poi si srotola tutte le trasmissioni di Radio Padania, se le ascolta tutte quante. È un drogato di Radio Padania. Servi di Roma fuori. E li serviamo, perché se non ci fosse Radio Padania, per quello che Cruciani non vuole che chiudiamo, perché se chiudiamo, Cruciani è fallito completamente, non sa più a che radio attaccarsi. E cosa fa? Blobba Radio DJ, lo Zoo di 105, ma per piacere. Sammy è andato proprio, eh? È andato fuori di testa. Goduria, goduria. Caro Sammy Varin, è inutile che ti rispondo perché non vale la pena. È evidente che esistevamo prima e esisteremo dopo Radio Padania. Io veramente un'idea negativa di me. Io voglio la sopravvivenza di Radio Padania senza denaro pubblico, senza denaro pubblico. E se esistono imprenditori vicini a voi dovrebbero investire sulla radio. Semplicemente perché non mi piace una voce che viene soppressa. Dunque non la chiamo Radio Odio come fa Parenzo. Non vorrei che vi incriminassero per odio razziale. Assolutamente no. Fai vedere quanto è bella la tua terra. Oh, sentiamo però una cazzata di Varin su che cosa? Ah sì, Travoni, gender. Sentiamo questo, dai. Siccome però le donne hanno dei lavori più pesanti da fare anche in casa, insomma, viene riconosciuto che la donna serve a qualche cosa anche in casa per tirare su la famiglia, finché ce lo permettono, perché tra poco a tirar su la famiglia ci saranno i travestiti, i travoni, transgender, bigender, trisgender, e non lo so, siamo un po' retro noi, pensiamo che la famiglia sia fatta da un uomo e da una donna. Ripensamenti. Oh, andiamo a Torino, Sergio, vai! Pronto, Cruciani? Dimmi! Sono Sergio, non so se ti ricordo, ho chiamato qualche mese fa che ti avevo detto di essere Cristo II, non Messia, e Parenzo mi aveva sparato a zero, ti ricordi? Cioè, no, scusa, mettiamo le cose a posto. Allora, tu hai chiamato qualche mese fa dicendo che cosa, scusa, puoi ricordarmi? Ero Cristo II, il nuovo Messia. Cristo II, il nuovo... Sai che mi avevi detto, ti bacio la fronte, signor Cristo II, non ti ricordi più? Beh, amico mio, adesso, un paio di mesi fa, sarà prima dell'estate. Bravo, così devoto, bravo. Cioè, Cristo II, il nuovo... Anch'io, io ho detto, bacio la fronte! No, anch'io. Non baciare la fronte a Cristo II, il nuovo Messia, perché... No, ma avevi detto ti bacio la fronte, però Parenzo mi aveva sparato a zero, mi aveva detto le punturine qua e là. Beh, insomma, credo che anch'io non... Speriamo, comunque non c'è bisogno, secondo te non c'è bisogno di un messia nel mondo? No, non c'è bisogno di un messia e soprattutto non credo che tu sia il messia, caro Sergio. E perché non credi? Beh, amico mio, io non credo proprio che tu sei Cristo II, il nuovo messia. Eppure lo sto dimostrando, perché ho già chiamato lo Zoo di 105, ho già chiamato RTL, adesso sì. Sto chiamando anche Radio... E che vuol dire questo? l'uomo, non è la prova del nuovo messia. Sono un erotomane come te, sono un erotomane come te. Mettiamo le cose a posto. Io non i miei pregi e i miei difetti. Io non sono un erotomane. Tu hai chiamato, ma questo non frega niente a nessuno, può fregare, ma comunque. Come non frega niente a nessuno? No, come non frega però niente Sergio, nessuno. Chi te l'ha detto che non frega niente? No, nessuno? Questo può darsi che freghi, ma io non capisco il fatto che tu abbia chiamato lo Zoo di 105, RTL, altre trasmissioni dicendoti e proclamandoti il Cristo secondo il nuovo messia. Questo non è che ti, come dire, ti dà la bolla in testa, dice, e ti dà il certificato ma di nuovo messia. Speriamo che lo sia, speriamo. Non c'è bisogno secondo te di un messia, di un nuovo messia. No, dopo non c'è tutto bisogno. Quello che succede al mondo, dopo tutto quello che sì, succede. Sì, ma ci sarà anche pure bisogno, ma non sei te e soprattutto non sei e tu perché hai chiamato lo Zoo di 105, che dici tu che non sei te. ma forse è Cruciani, forse sono io, cioè che cosa ti dà questo ma monopolio? Io me lo sono sentito, anche Gesù Cristo se l'è sentito, io sono come dico un uomo ma con tanti se lo sono sentito. Che miracoli fai? Sì. Speriamo il Signore che lo sia, preghiamo il Signore, anche Papa Francesco, speriamo che mi senta. Che miracoli fai? Sergio, che miracoli fai? Ma miracoli fa, io come ti dico sono una persona normale, mi piacciono le donne, se sei normale perché dovresti mangiare, lavoro, scusami, sono una persona capito, normale. Ma tanti, scusami, non credo scusami che... se sei una persona normale come fai a essere Cristo secondo il nuovo messia, scusami. Come fai? Ma Gesù Cristo non era una persona normale. Sì, d'accordo, ma non sei Cristo secondo, non sei Cristo secondo il nuovo messia, basta! E che lo dici tu figlio di puttana bastarda! I'm a real wild one. Wild one. Ha perso la testa. Ha sbroccato, è quello che volevo. Marcello da Roma, vai. Lo sapevi, eh? Sì, Marcello, buonasera. Dimmi. Buonasera. No, non lo sapevo. Tu sei il terzo, Marcello, sei in lista attesa. Cristo terzo. Anche ieri, in effetti. Vai, Marcello, dimmi, Cristo terzo. Dimmi. No, non nella chiamata, nella cristologia. Però... Dai Marcello, che c'è? Dai. Allora, una cosa a Matteo, quello di prima, 100 euro in tasca e una bella macchina, sinceramente, povere donne. Io comunque chiamavo per la era simpaticissimo Matteo, dai su. Sì, era simpaticissimo, ma scusa, cioè, una 64 anni che ancora mi dice 100 euro in tasca e una bella macchina. E vabbè, ma ognuno fa quello che vuole nella vita, dai, su, dice basta poco per una donna, avere 100 euro in tasca. Ce n'era una lì vicino, per cui insomma. Ma ho capito, ma saranno cazzi suoi i rapporti con la donna che ha adesso, sono affari suoi. Contento lui, contenta lei. Io mi chiamavo per la legge sulla caccia, se io farei una piccola integrazione. E qual è? Come io detesto i vegani integralisti che ammazza bambini, eccetera, eccetera. Allo stesso modo... vorrei che quando si apre la stagione della caccia, parallelamente ai cacciatori che sparano a fagiani e a passerotti, ci fossero altre persone che armate sparano ai cacciatori, quindi troverebbero... Vabbè, una cazzata hai detto, dai, la cazzata delle 20 e 50. No, ho detto una cazzata, scusa. Perché si possono cacciare gli animali, ma non si possono cacciare gli uomini, mi sembra una regola fondamentale. No? Poi se decideranno di abolire la caccia, e non ci riuscirebbero perché ci sarebbe la caccia da frodo, eccetera, eccetera, benissimo, non me ne frega niente, non succederà, ma non me ne frega assolutamente nulla, ma quello che immagini te che è una provocazione, no? Bisogna autorizzare la caccia ai cacciatori, è una cosa ridicola, chiaro? Ragazzi, Luca, ci sentiamo domani? Ciao, bye. Ciao. Questo disgraziato di Cruciani non parla che di sesso, è un erotomane che finirà in uno stato di delirio prima o più rinchiuso da qualche parte. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Caricio voglio ridere. Prenda atto che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.